pour le même combat, mafia, tout unis, pour le même combat, mafia, tout unis, pour le même combat. Eccoci, oggi la trasmissione l'ho intitolata Transiberiana, mitico treno che parte da Moscova per andare a Vladivostok, completamente all'est, o se si gira un po' prima verso sud, esattamente a Ulan-Ude, si può raggiungere Pechino via Ulan-Bastan in Mongolia. Ci permetterebbe di ovviamente alcune libertà con la geografia e il tragitto del famoso treno. E iniziando il viaggio un po' più all'ovest di Moscova, oggi passando un po' più al sud, dove la ferrovia non va, e chissà dove ci porterà questo bel viaggio. Intanto, per capire un po' dove andiamo, la Russia è il paese il più ampio del mondo, lungo 9.000 chilometri dall'ovest all'est, 140 un po' di più abitanti, 30 volte l'Italia, 10 fusi orario tra Europa e Asia, tra Baltic e Arctic, Mare Nero e Pacifico. La Russia, ex member dell'ex URSS, la quale è scoppiata, come si sa, 20 anni fa, in dicembre 91. E mi sono un po' attardata nella lettura della nostra enciclopedia che è dedicata alla Russia per scoprire che la Russia è una federazione di 83 soggetti che sono delle repubbliche, delle oblast, okrov, realtà amministrative che dispongono di più o meno autonomia secondo il loro status, la loro storia. Infatti la storia ha spinto questa divisione perché infatti in questo paese si incontra 128 nazionalità. E che si può ancora dire? Si può ancora dire che la storia di questo paese fa che in questo momento non è che si sta molto bene, non si sta bene, ne vedremo, per i soggetti LGBT, non si sta molto bene per le donne. Io direi forse non di più, non di meno di altri paesi, ma forse un po' di meno. C'è un tasso di suicidio che porta la Russia a essere il quinto paese al mondo su questa cosa, ma abbiamo anche delle buone cose da portare e da sentire da questo paese, e iniziare a mandarvi un pezzo di Ivanova, un gruppo di donne che comunque si fa sentire. Thank you. вещи сказал, убоит дали-дали. Казашки костры висели на пророч, оторвись и полети, лети от земли. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, les notizie per la comunità LGBT non è molto buona. Saint-Pétersbourg, il diritto alla libertà di espressione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgenre, intersessuali è molto ristretta. Sarebbe molto ristretta nel caso dell'adozione di un progetto di legge omofobica. Infatti già il 16 novembre il comune, l'assemblea municipale del San Petersburg aveva adottato quasi all'unanimità una legge che vieterebbe le manifestazioni pubbliche delle persone e organizzazioni LGBT, che significa manifestazione ma anche assemblea, ma anche locali, ma anche flyer, ma anche dibattiti pubblici, visibilità di qualche sia cosa e di fatto anche richiesta di alcuni diritti. Questo lo dice Amnesty International, ma lo dice anche l'associazione Gay Russia, che ha chiesto alla comunità europea di intervenire perché questa legge sarebbe una cosa molto grave. Infatti da novembre le associazioni si muovono, particolarmente l'associazione All Out, che manda e chiede a firmare una petizione, si trova sul loro sito All Out. In Russia non è la prima volta che succede, infatti in Razian in 2006 e in Arkhangelsk, due altre città o due regioni, hanno comunque deciso, questa ultima l'ultimo settembre, questa una legge similare che proibisce tutta intervenzione o visibilità pubblica delle LGBT. La Russia comunque è abbastanza conosciuta come un paese intollerante verso le gay e le lesbiche. Purtroppo, se guardiamo l'attualità, ultimamente a Mosca un impiegato omosessuale della compagnia aerea Aeroflot si è visto nell'obbligazione di sposare una delle sue amiche, se non si vedeva congediato, forse mandato fuori, diciamo licenziato. E ovviamente questa notizia ha scandalizzato i gruppi di lotta per i diritti delle minorità sessuali. Infatti che è successo è che questo Maxim Gupreev chiesto ai suoi padroni di avere un gruppo per proteggere i diritti dei lavoratori lavoratori LGBT dell'impresa. Quelli, per esempio, ha insistito per fare che nessuna referenza all'orientamento sessuale o all'identità di genere sia messi su documenti interni, e voleva anche che sia riconosciuto per le persone in coppia di avere gli stessi vantaggi sociali che gli impiegati eterosessuali. Questo progetto non ha molto piaciuto a Aeroflot e la compagnia ha rifiutato la sua richiesta e l'ha anche invitato a sposarsi, se no sarebbe stato licenziato. E lui, non sapendo che fare, ha sposato un'amica. Anche lì Gay Russia, un'importante associazione di Russia, ha denunciato la vicenda. Noi continuiamo anche con la musica di Zemfira. Zemfira è una cantante che è più al sud, una piccola regione sud che si chiama... Ah, ho perso la mia... pezzo di carta che vi dico un po' al sud, nel Lufabashkiri, si trova tra la Volga e i monti Urali, e è una regione economica di, che si chiama Urale, fa proprio suonare Zemfira. E dunque lei era Zemfira. Noi oggi dentro Megaphonics stiamo viaggiando in Russia, Russia attuale anche la Russia in questo momento. Infatti dal 4 dicembre scorso, data delle legislative, sembra che alcune parti della popolazione si muovano contro Putin, sperando bloccare una nuova elezione del presidente che adesso è primo ministro. Per ricordare un po' questa faccenda, Putin è stato eletto in 99, ed è diventato primo ministro. Poi in 2004 Putin è diventato presidente, non potendo prendere un terzo mandato. In 2008 è stato eletto Medvedev, e di nuovo con Putin al primo ministro. E dunque sarebbe un terzo mandato, anche se possiamo dire che da 12 anni il paese sta sotto l'autorità di Vladimir Putin. Di questo la gente non vuole più. C'è stato il 4 febbraio manifestazione anti-Putin. Gli osservatori sono d'accordo per dire che comunque è un movimento molto eteroclito che va sia delle ex comuniste, della gioventù meno politizzata, ma anche dei nazionalisti, che un po' tutte le facce che sono contro il sistema Putin. E alcuni testimonianza che vengono di questa manifestazione dicono che i funzionari, impiegati statali, insegnanti sono stati forzati a partecipare al presidio pro-Putin, che sono stati portati con dei pullman per fare la contromanifestazione. La persona che raccontava questa cosa parlava delle bella vecchia tradizione sovietica in cui le organizzazioni si muovono forzando un po' la popolazione a andare in piazza per rinforzare il regime. Si vedrà dunque altre cose significative. Un studente della facoltà del giornalismo a Mosca ha interpellato il presidente Medvedev dicendo: ma voi capite che potete anche essere condannato alla pena di morte, siete pronti a accettare questo coraggiosamente, come l'ha fatto Saddam Hussein, o deciderete di migrare in Corea del Nord? Questo è stato anche un gran colpo, perché è chiaro che in questi 12 anni sono stati pochi le voci che si sono elevati contro il regime, e il fatto che in questo momento si muovono non sembra che comunque farà molto cambiare le elezioni, che come quelle delle legislative sono truccati. Ma evidente anche che la gente si muove. Si è visto anche a Moscova 3.000 macchine con pezzo di carta o pezzo di stoffa bianca a girare intorno alla città sul gras, diciamo, per contestare e fare vedere che vogliono comunque bloccare il traffico, per bloccare e farci sentire dalle autorità. Et une terza cantante qui ci accompagnera in tutto questo viaggio si chiama Jeanne Agusarova-Assanova, che lei è un po' più à l'est, lei è in una zona che si chiama il Tiumen che diciamo a mezzo tra le due parti est-ovest, una regione che si chiama Siberia dell'Ovest. E dunque Jeanne difficile, Assanasova. E non si poteva neanche fare questo viaggio senza andare al sud-sud, lì vicino all'Ucraina, dove c'era quelle giornaliste che in particolare lavoravano sulla Cecenia, Anna Politakovskaya, che è stata uscita il 7 ottobre 2006, e un'amica sua che è stata uscita il 26 luglio 2007, Natalia Estemirova. Lei è stata presa quando usciva dal suo domicilio, è stata forzata di andare in una macchina, ci sono stati testimoni di questa scena, e quelli hanno poi allertati le responsabili dell'organizzazione memoriale per quale lei lavorava. E lei dirigeva le attività di questo memoriale a Grosny da 2000, ha lavorato sul posto per questa organizzazione difesa dei diritti di uomini durante la seconda guerra di Cecenia, e era conosciuta come militante e giornalista anche prima della prima guerra di Cecenia, all'inizio degli anni 90. È un'amica di Anna Politaskova, e le sue prese di posizione andavano ovviamente contro il Cremlino e né anche contro il presidente cecen Ramzan Radikov. Ultimamente aveva denunciato l'esecuzione arbitraria e aveva messo direttamente in causa il potere pro-russo in Cecenia. Anton Cherkakovs, membro dell'Associazione Difesa dei Diritti degli Uomini Umani, Memorial, dice: io penso che questa è la vendetta delle autorità cecene, perché Natasha ha lavorato su dei crimini commessi da queste strutture. Chi ha ucciso Natalia Estemirova? Chiedetelo al Cremlino. Thank you. Esiste una vecchia parola in russo, coviorni, un derivato di corvior, tappeto. Ha quasi lo stesso senso della parola clown, ma un po' più precise. Il coviorni entrava sul palco del circo, il tappeto, per divertire il pubblico. In nessun caso non doveva rendere triste il pubblico. Se non riusciva a far ridere i signori venuti per lo spettacolo, il pubblico fischiava e il padrone del circo lo licenziava. Quasi tutti i giornalisti e media russi della generazione attuale sono dei corvioni. Tutti insieme formano un circo con l'obiettivo di divertire il pubblico. Quando scrivono su dei argomenti seri, vantano solo i meriti della verticale del potere. Mi ricordo che negli ultimi 5 anni il presidente Putin ha costruito passiatamente questa verticale del potere, in cui tutta la gerarchia burocratica dal basso all'alto è nominata personalmente da lui o di chi è stato nominato da lui. La verticale del potere è un sistema statale da quale sono stati estromessi dei posti di direzione tutti quelli che potevano pensare diversamente dai loro superiori. L'amministrazione del presidente Putin, quella che di fatto governa il paese, ha dato un nome a quello stato di cose, Nakri, i nostri. I nostri sono quelli che sono con noi, gli altri, quelli che non sono con noi, sono nemici. Una maggioranza scacciante dei media russi non fanno altro che descrivere questo dialismo, come i nostri sono buoni e giusti e come i nemici sono ripugnanti. In generale i nemici sono presentati come gente venduta all'Occidente, uomini e donne politici di orientamento liberale, difensori dei diritti umani, cattivi democratici, Poutine essendo l'unica immagine di un democratico buono. La stampa e la televisione fanno grossi titoli per annunciare una grande rivelazione. Tale nemico sta ricevendo sovvenzioni di una fondazione occidentale. I giornalisti e media hanno a cuore il loro circo. La lotta per diffondere informazioni imparziali o per servire questa causa e non l'amministrazione presidenziale appartiene al passato. Viviamo un'epoca di stagnazione intellettuale e morale nell'ambiente professionale a quello appartengo. Che questa stagnazione sia di nuovo trasformato il mestiere di giornalisti in quello di propagandisti, con nei tempi dell'URSS non si vergognano i miei colleghi. Riconoscono senza fastidio che ricevono direttamente dal presidente informazioni sui nemici e anche il fatto che il presidente gli detta gli argomenti da trattare o quelli da evitare. Che ne è di quelli che non vogliono partecipare a questo circo? Sono proscritti. Non è uno scherzo né anche un'esagerazione. Un vuoto si forma intorno a loro, a di loro. I funzionari li sfuggono come la peste durante gli incontri pubblici, ma vanno molto di moda di incontrarli di nascosto, come all'epoca sovietica. Si dà appuntamento all'aperto, nei giardini pubblici o dentro nelle case dove i funzionari e i giornalisti arrivano da diverse strade, come se erano spie. La gente del mio giornale, unico organo di opposizione di orientamento democratico, non sono mai stati invitati a una riunione dove potrebbero essere presenti rappresentanti dell'amministrazione presidenziale. Gli organizzatori non vogliono essere sospetti di simpatia per Nuova IA Gazzetta. Quello è un testo di Anna Politkovskaya che si chiede che succede di noi quando non andiamo. Lei l'ha pagato della sua vita, abbattuta di 4 balle di pistola quando usciva per andare a fare la spesa. Il 7 ottobre 2006. От нежности, а твои мои свежести. Я помню все твои трещинки, а пою твои мои песенки. Ну почему? We'll be right back. печали, да я разбита, я не тупица, я не объявляла войну. Я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести. Я помню. Con questa zenfira concludo questa Megaphonics di oggi, promettendovi che farò uno sforzo sia sulla qualità dei pezzi mandati, sia sulla pronunciazione sia del russo che dell'italiano, e la dizione e la lettura. Vi saluto e vi dico a fra due settimane. ظلم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا 你有猫的实力还要娶来当波心你闻回捞几个眼子就在哪里做 我有一个不能放放放طبيت يكون سرعتا اسمعوني جيبوا شباب ومئات البنات نطلع الجبل للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitica. Keine Keller sind, wir sind lesbisch, haben Mut, haben schon so lange gewartet. Helfen kann uns nur die Wut.